24 mattino. Allora, dopo la lettura delle pagine o delle pagine, è giunto il momento dei cani e dei gatti. Vedo sfavillare quella testa che contiene un cervello folgorante, incandescente, prolifico. Oscar Giannino. Eccoci qua. Cominciamo con oggi 29 settembre, seduto in quel caffè. No, sarebbe bello, però. Grande canzone, sapete che sono vecchio, ragazzi, però insomma, ognuno. E prendiamola perché è il giorno che tutti ricordano. È il giorno del doppio compleanno Berlusconi Bersani, le due B della politica italiana. Vedi come oggi siamo messi? Io ricordo oggi 22 settembre e giustamente ricordi Bersani. E tu sei nazional popolare. La voce è dell'alto e del basso insieme. E ognuno può scegliere rispetto a quale sia l'alto e il basso tra l'equipe 84. Senti, ecco, la vedi? È un omaggio a te. No. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Vabbè. E invece io volevo pensare con te a questa notizia. C'è da credere alla notula che ha scovato Bekis di accompagnamento al DEF, che contiene questa indagine sull'aumento della spesa previdenziale e che secondo Bekis ci porterebbe a rischiare un'altra Fornero? Ma c'è da credere, sì, le formulazioni di aggiornamento, come si dice con gergo tecnico, attuariale della spesa previdenziale nei prossimi anni sono dovute per legge in ogni documento economico e di accompagnamento preventivo della legge di bilancio. E c'è, sì, l'ha visto Bekis, ma io ne ho parlato per lo settimana. So che ne hai parlato tante però, volte, ma non vuol dire che necessariamente dobbiamo prendere i soldi lì. Non vuol dire una cosa, cioè, che per prima di mettere in cantiere tutti i prepensionamenti che molti chiedono e alcuni quali anche ti piacciono, bisogna sempre ricordare che la prospettiva è quella di passare dall'attuale 15% a oltre il 18% del PIL. La legislazione attuale è quella, quindi il sistema tra virgolette messo in sicurezza. Io te lo dico, scoppia una rivolta in questo paese se si mette mano alle pensioni, di nuovo se si alza ancora, se si manda la gente sulle impalcature a 70 anni. E arriveremo a questo. Serve a impedire altre scassature alle pensioni come quelle di cui abbiamo già parlato, ecco, capisci? Si tratta di non fare l'opposto, non di voler fare nuove Fornero. Non usiamo il paradosso opposto, perché altrimenti non si fa informazione, si fa politica. No, ma io non sto facendo informazione. Bekis dice: questa nota spiega che aumenterà la spesa previdenziale nei prossimi anni, ti dico anche di quando, ma tu già lo sai, nel 2035 del 17,9%, e quindi una via e mettere mano alla Fornero e alzare ulteriormente l'età pensionabile. Un'altra via è trovare altrove questi soldi, aumentando i prelievi, aiutando comunque i ragazzi a lavorare, a pagare contributi, facendo aumentare il gettito del PIL. Quello che non si può fare, secondo me, perché ognuno sceglie una priorità, tu puoi scegliere la tua, quello che non si può fare è dire ancora alla gente, soprattutto a quelli che fanno i lavori usuranti veri, non quelli farlocchi riconosciuti dalla legge Fornero, quelli che ora non sono riconosciuti usuranti, operai, edili, gente che si spacca le ossa facendo l'infermiere, il portantino, dirgli devi rimanere a lavorare fino a 70 anni perché non si può. Beh, fine della mia opinione. Esatto, fine della tua opinione, vedremo. Tu invece dici aumentiamo ancora? No, io ti dico no ai prepensionamenti ulteriori e dalle e 4 e 5. La politica nella direzione non di ulteriormente accelerare, la politica sta andando nella direzione di sospendere gli aumenti automatici dell'innalzamento dell'età pensionabile collegati all'attesa. Hai visto che non ce l'hanno fatta, no? Ma non ce l'hanno fatta perché appunto al MEF per le donne hanno la DEF, tabellina sotto gli occhi. Ce n'è un'altra pagina 94 della nota di aggiornamento del DEF che dice attenzione, perché se finendo il cui c'è le politiche di monetario non ortodosse della BCE tra poco avviene una nuova crisi del rischio sovrano italiano combinato a una crisi del credito, c'è una bella tabellina che dice il debito pubblico italiano potrebbe rimanere superiore al 130% del PIL per di qui a 10 anni, e quella sarebbe la catastrofe. Ma vedi, come si vede, però di queste cifre la politica frega niente. È vero, però in questa tabella, visto che a noi di queste cifre importa, c'è anche un altro fenomeno, cioè il picco sarà nel 2040 e poi con un aumento del 18 e poi comincia a scendere. Quindi alla fine della fiera, almeno di questa tabella, nel 2070 la spesa che nel 2020 sale del 15,3 scende al 13,8. Quindi è una curva decrescente. Il problema è che fai la riforma, no? fai la riforma. Il problema è che prima sale molto. Non però. Solo parametrato sul picco. E sale molto rispetto a una media di paesi OCSE che in previdenza non spendono il 18%, non spendono neanche il 15%, ma spendono l'11%. Quindi noi più la abbiamo un welfare tutto sugli anziani, meno lo avremo sui giovani, sulle famiglie, sul sostegno alla conciliazione tra tempi di lavoro e carichi parentali. E anche questo poi il punto, no? Quindi non è che si tratta di avercela, di avere il chiodo fisso, no, voglio mandarmi in pensione a 85 anni. No, è che uno squilibrio sia di spesa che nella composizione della spesa sociale. No, è un diverso modo di vedere le cose, ma lo consegniamo così, cani e gatti sono divisi. Invece questa cosa dell'aumento dei super ricchi, sono cresciuti del 10%, ancora già crescevano l'anno scorso, ti sembra un dato prodotto da cosa? Cioè gli italiani che hanno più di un milione sono 252.000. Qual è, se andiamo a fare in maniera comparata, perché le cifre assolute si sparano, l'Italia in termini comparati, il decile più elevato, cioè la parte, il decimo della popolazione italiana con reddito e quindi stock patrimoniale più elevato, è più o meno elevato che in altri paesi? È uscita la graduatoria aggiornata pochi giorni fa. Stati Uniti molto più di no noi. Ma non solo gli Stati Uniti, degli Stati Uniti, della Germania, cioè, della Francia, eccetera eccetera. No, la Germania meno di noi, ce l'ho qua davanti agli occhi. Ecco, Austria, Germania, Irlanda. La Germania è uscito all'aggiornamento per spiegare le elezioni e il decile più elevato ha avuto l'aumento più rilevante, che spiegava perché la Germania è un paese a reddito medio pro capite più elevato d'Italia, hai voglia, molto più elevato, però la concentrazione nella parte più elevata è molto accelerata in questi ultimi anni, più che da noi. Quindi il problema è, non è solo guardare il dato del decile più elevato, ma questo è da analizzare. In comparazione rispetto agli altri paesi, noi abbiamo una tendenza più tragica. Abbiamo avuto anche noi un innalzamento della varianza di distribuzione con un'accentuazione della ricchezza nella parte più elevata, ma grazie al cielo meno elevata che altrove. Siamo contenti per loro in ogni caso. Mentre arriva Luigi da Padova sulle pensioni, dice. Buongiorno e un saluto anche al cardinale. Chi è il cardinale? Volevo intervenire. Quello è laico. No, è la storia vecchia dei tempi della trasmissione con Mila. Perfetto, ok. Volevo intervenire sulle pensioni, cioè io a 65 anni sono ancora su un autotreno che guido e fino al 67 non vado in pensione. Non è riconosciuto un lavoro usurante, faccio 17-18 ore al giorno. Roba da pazzi. La mia domanda che vi faccio è questa. Perché continuiamo a pagare i contributi a uno Stato che non è più in grado di garantire una pensione dignitosa? Questo volevo sapere. Certo. Perché se noi ci teniamo i contributi che versiamo all'INPS, ci facciamo una pensione per conto nostro. Ci sono, è un po' più difficile farsela per conto vostro. Però le voglio chiedere una cosa. Lei è contento di avere altri 2 anni di lavoro? Perché magari dicono qualcuno di questi è contenti, a 67 anni si è ancora giovani. Ma non diciamo cretinate. A 65 anni fai 17-18 ore, arrivi a casa che sei distrutto e con un rischio anche di guida che non è una cosa indifferente, perché noi guidiamo un autotreno da 44 tonnellate sulle strade, pertanto tutte queste cose, vedere anche le persone per esempio che vengono pagate pensione da 90.000 euro e sono diritti acquisiti e noi non abbiamo il diritto di andare in pensione, non ho capito. Perché bene, non cominciamo a togliere anche le pensioni ai parlamentari invece? No, quelle le hanno già tolte, è un voto lì, le hanno già riformate e non è il problema che riguarda lei, cioè è simbolico ma non cambia. Io sono dell'idea che lei dovrebbe avere come usurante, e se non è usurante quel lavoro figuriamoci, uno scivolo diverso da quello che fa un lavoro come il nostro, come quello mio e di Oscar, che romperemo ancora le scatole a 70 anni. Oscar, su questo tipo di lavoro che è sicuramente usurante, tu apriresti uno spiraglio? Io voglio capire, rispondi alla seguente domanda: tutte le 8 salvaguardie che abbiamo fatto per gli esodati, secondo te erano tutti esodati dalla riforma Fornero o no? Beh, sono esodati dei diverse riforme, dei passaggi precedenti. All'inizio abbiamo assunto come idea che gli esodati, come è corretto, sono coloro che si sono trovati senza lavoro nell'intervallo di tempo in cui si innalzava drasticamente il requisito di età per via della Fornero. Dopodiché abbiamo iniziato ad estendere la categoria che con gli esodati non ha più niente a che fare e ci siamo inventati 200.000 esentati dalla riforma. Allora, mettiamoci d'accordo su che cos'è un lavoro usurante, perché io se sento dire che l'insegnamento è un lavoro usurante mi scappa da ridere, perché non è così. Non ho detto che l'insegnamento è usurante in assoluto, parlavo di altri casi, edilizia, le emergenze, autotrasporto, chi lavora alla catena di montaggio sicuramente non può andare a quell'età e non può guidare perché diventa un pericolo per gli altri. Marco D'Ancona. Buongiorno. Niente, io volevo dire che sono contrario a ogni incremento di spesa pensionistica perché viene finanziata dalle tasse e quindi siccome sono 270 miliardi già di spesa più tutto il resto, io vorrei capire dove prendiamo i soldi, ecco, se cadono dal cielo, se da qualche parte. Allora, posso dirti una cosa tabù per la sinistra, non so se per Giannino, per molti, ci sono in Italia una categoria, sono i baby pensionati, che sicuramente fanno scandalo rispetto a tutti gli altri. Allora, per chi è andato in pensione con le cosiddette leggi De Mita dintorni, 16 anni, ecco, lì bisognerebbe dire, ragazzo, hai avuto tantissimi soldi, sei ancora giovane, è vero che c'è un diritto acquisito, ma il tuo viene limitato, cioè si può recuperare dalla stessa spesa previdenziale se si rompe un tabù, che non è uguale per tutti, cioè bisogna distinguere, così come bisogna distinguere chi fa un lavoro duro in miniera e chi legge libri e scrive articoli, così bisogna anche distinguere chi ha avuto già tantissimo e in questo momento è assurdo che stia sull'impalcatura del 67enne mentre prenda ancora una sontuosa pensione, baby, chi è andato in pensione con 16 anni. Se sono onesti, lo capiscono. Non puoi prendere una pensione con 16 anni di lavoro, secondo me. Oscar. Figurati, io dal 2012 che scrivo articoli a favore di quello che poi è diventato, con Tito Bori presidente dell'INPS, l'operazione prima di trasparenza sugli 11 fondi speciali della Previdenza. Gli 11 fondi speciali sono quelli di chi ha maturato le pensioni retributive ai tempi del retributivo, cioè agganciate le ultime retribuzioni, ma ulteriormente vantaggiose, molto più vantaggiose rispetto al fondo di non lavoratori dipendenti, cioè avevano requisiti, come hai appena ricordato, in alcuni casi di età anagrafica molto più bassa. Allora, ci spareranno, se si uniscono però, i cani e i gatti, però, ci dicono che siamo degli assassini, no, che poi smonteremo tutto, come no, dimostrano i conti di Tito Boeri e la proposta nostra, quella di Tito, congiunta con altri autorevoli economisti italiani, è quella di intervenire per il ricalcolo contributivo ex post rispetto agli anni del retributivo loro incassato, e quella di intervenire sopra una certa soglia, si può intervenire dai 5.000 euro lordi in poi, però io sono dell'idea che è giustissimo farlo, perché non è vero che non si può fare per Corte Costituzionale, tanto per dirne un'altra, abbiamo risposto mille volte a questo argomento, però sono di questa idea. Quanto agli operai vorrei evitare però una facile cosa. Nei paesi in cui da tempo e con maggior progressione, senza fretta perché avevano un orizzonte riformista più acuto, hanno innalzato l'età pensionabile, e quella che conta è quella reale, non quella legale, non mi stancherò mai di ripeterlo, hanno cambiato anche la cultura del lavoro, cioè nelle aziende manifatturiere oltre una certa età si resta dentro a lavorare con altre mansioni, a parte il fatto che la produzione in linea ripetitiva fordista è oramai molto limitata, però è ovvio che bisogna cambiare la cultura del lavoro. Questo non significa che possiamo andare verso un mondo nel quale però se la regola legale, che nessuno rispetta o quasi, perché ci siamo inventati ogni anno esenzioni, di 67 anni, significa che poi c'è una parte amplissima del mondo del lavoro che ci può andare 7 anni prima, perché quella è la classica ipocrisia italiana. E è arrivato un messaggio contro il nostro ascoltatore, perché dice: ma comunque è una follia guidare 18 ore al giorno anche per un ventenne. Sì, però spieghiamo com'è quel lavoro, non è che guida 18 ore continuativamente. La legge, ovviamente, ecco. Se stai facendo un viaggio fra la Sicilia e la Danimarca, il tuo orario di lavoro comprende anche le soste che fai durante il tragitto. Simone da Roma nel traffico della raggica, questo è divertente. Pronto? Pronto. Simone. Ho mandato un messaggio dicendo appunto che dopo 22 anni me ne aspettano non so ancora quanti di lavoro, penso almeno una trentina, guadagno 1500 euro, sono un quadro di una grossa azienda e non so a che cosa si riferisca a Giannino per quanto riguarda l'età pensionabile, il cambiamento di lavoro. La situazione attuale è che tutte le grandi aziende stanno sostituendo i contratti nazionali di lavoro con regolamenti interni mobbizzanti, dove le regole sono totalmente diverse da quelle del lavoro al quale siamo abituati. Fai la tua proposta, qual è l'età giusta? Vado a fare il barbone piuttosto che pagare la pensione a Giannino. Perché lui andrà in pensione Il mio invito è di andarci, perché a un certo punto, se invece che fa che ragionare sui numeri delle cose andiamo sugli insulti personali, con una benedizione da parte mia, perché io invece ti assicuro non faccio questioni, siccome con i miei contributi mensili pago come in un sistema di protezione tutti, non faccio sto razzismo schifoso che hai appena espresso, grazie. No, non è razzismo. Schifoso, razzismo schifoso. È razzismo schifoso. Ma voi parlate di cose che non sapete, venite. Ma fammi ridere, fammi ridere, fammi ridere, caro ascoltatore, fammi ridere. Sai che cosa non va bene? Oscar sta facendo un ragionamento, sta sostenendo una tesi. Personalizzare una posizione di uno che lavora e si paga i contributi su ogni articolo che scrive, di Oscar so tutto, quindi è vero. Cioè, capito? Come dire, un mezzuccio, tu puoi polemizzare con lui e dire è una posizione orribile, non puoi pagare la pensione 50 anni senza alcuna regola, non ci sono più le regole. Guardate nelle aziende quello che succede, ma tutti paghiamo le pensioni a tutti, però ma come paghiamo i contributi fino a 70 anni se leggete i numeri del licenziamento? Questa è una bella domanda. Vabbè, 70, allora bene, allora stai ponendo pensioni. Un problema e non stai personalizzando, però vedi Oscar, abbiamo aperto il vaso di Pandora, perché molti ascoltatori ci stanno scrivendo, certo, in questo momento e dicono: ma secondo te chi lavora nel mondo informatico non soffre, non si affatica, non è stressato? Ma lascia perdere, fermo, pubblicità, torniamo subito dopo. Su. No che no, vai. Mattino. Allora, i cani e i gatti, arriva il nostro ospite Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, ve lo ricorderete, il primo storico capogruppo, uno dei personaggi più importanti, e ci aiuterà a capire la questione della Raggi. Però subito Massimo da Napoli, subito, perché è piombato Crimi, buongiorno, la saluto, nel mezzo di un feroce, non so se l'ha sentito, dibattito sulla previdenza, e interviene Massimo, subito che sta entrando al lavoro. Massimo, prego. Crimile dal suo tempo. Pronto Massimo? Mi sa che è entrato. non c'è, è entrato. È suonata la campanella. Sono così, è fantastico. Allora, come Fantozzi che doveva timbrare entro il tempo limite. ma credo che fosse un insegnante, quindi iniziava la lezione. Vedi. Beh, certo. Allora, Crimi, io non ho ancora sentito Oscar su questo, però la cosa che mi colpisce è questa: la Raggi è imputata ai 5 reati, l'hanno interrogata 6 ore, neanche fosse Pablo Escobar, adesso i reati sono decaduti 4, ne è rimasto 1, ma lei viene, come dire, indagata per questo quinto reato, che è la menzogna su un reato che non aveva commesso, quindi siamo dalle parti di Kafka, secondo me. Però non so come. La stessa domanda che mi ponevo io appena ho sentito questa cosa, insomma, sicuramente sarà anche questa una bolla di sapone, quindi abbastanza fiduciosi. Però voi non dovevate gioire e dire è stata prosciolta, dovevate arrabbiarvi. È perché se il reato non c'era, la menzogna su un reato che non c'era, non dovrebbe ma esistere. Non c'è bisogno neanche di arrabbiarsi, perché la verità verrà fuori in maniera prepotente al momento giusto, come è già venuto fuori adesso, che non c'è stato nessun reato da parte di Virginia Raggi, verrà fuori che anche questo falso probabilmente non è un falso suo, ma magari cerchiamo anche di capire in che ambito lavora Virginia Raggi. Lavora in un comune di Roma in cui da sempre c'è stato un legame stretto politica e dai funzionari, dirigenti, e altro è che quindi andiamo a individuare se qualcuno le ha sottoposto magari qualche atto da firmare o relazioni da mandare, appunto senza che lei avesse commesso un dolo nel dichiarare delle chiaro cose che forse. Allora, Oscar, su questo e poi la tiriamo dentro, si sta scatenando l'inferno. Le pensioni erano molto interessanti. No, la tiriamo dentro subito, perché ovviamente molti che fanno professioni che non abbiamo citato fra quelle immediatamente percepibili come usuranti, adesso ci stanno scrivendo. Un chirurgo, un lavoro usurante, dopo i 62 non si può più operare se non ammazzi qualcuno. Luca, no, sto leggendo, tu, no? Il tuo appello, che è quello di vasta parte della politica italiana, agli italiani a dire il vostro lavoro è usurante, che risposta vuoi che ottenga se non un categorico, oceanico, indistinto sì, il mio più del tuo, no, datemi lo però, scivolo, però continuiamo a ragionare. La mia domanda è chi paga? Oscar, però la domanda a cui bisogna rispondere è: se un chirurgo dice a 68 anni rischio di ammazzare qualcuno, è vero o non è vero? Questo bisogna ragionare. Allora, e bisogna ragionare su una cultura del lavoro che cambi le mansioni, non che mandi la pensione in la gente a 60 anni in pensione. Chiediamo a Crimi se lui distinguerebbe fra lavori usuranti e non usuranti, perché adesso, spieghiamolo ai cittadini, i lavori usuranti definiti sono ridicoli, cioè sono proprio chi lavora nell'alto forno dentro la fornace, no? E lei che cosa farebbe sulle pensioni, Crimi? Allora, sicuramente alcuni lavori usuranti oggi non sono riconosciuti, e quindi su questo dobbiamo dare atto che bisogna allargare il riconoscimento di alcuni lavori usuranti. Concordo con Giannino invece quando dice che c'è una differenza tra il lavoro usurante e un lavoro che di fatto ti crea un danno anche fisico nel tempo, rispetto a un lavoro che a una certa età non si può più fare. Il caso del chirurgo, chiaramente da una certa età in poi diventa sempre non più difficile operare, ma è più rischioso. A quel punto bisogna trovare altre modalità di organizzazione del lavoro e di distribuzione delle mansioni lavorative per ottimizzare al meglio anche quello, tutto il progresso e la storia della persona, l'esperienza, le competenze che possono essere anche messe a disposizione dei giovani che entrano nel mondo del lavoro. La cosa interessante, perché poi ci ha mandato un messaggio, vedi, quell'insegnante Oscar non diceva voglio andare in pensione, però continuerei a lavorare se fossero cambiate le mie mansioni. Ecco, cioè, ma che vuol dire? Faccio il bibliotecario, non entro in classe esatto, 5 ma ore, bisogna cambiare la cultura. Perché non riusciamo a evitare il muro contro muro, una concezione statica del lavoro. Immaginare il lavoro in modo flessibile che cambierebbe tutto. Alfiere da Roma. Pronto? Sì. Buongiorno. Io faccio parte del gruppo Facebook Lavoratori Precoci Uniti a tutela dei propri diritti, forse ne avrete sentito parlare. Sentivo prima, poco fa, gli interventi sulla previdenza e ho deciso di intervenire. Prego. Allora, il problema è che, secondo me, 41 anni di lavoro, come noi chiediamo che venga fatto, e cioè volevamo che venisse in qualche modo legiferato il decreto Damiano. 41 anni di lavoro, secondo voi sono troppi sempre? Ma sono troppi perché al di là ma del non lavoro, pensa, il lavoro non il, pensa il lavoro che durante, va, cambi da lavoro a lavoro? Che qualcuno no, potrebbe no, allora guardi, no, le dico una cosa. Il lavoro esiste il lavoro usurante, sentivo poco fa il tizio che lavora, l'operaio che lavora nelle fornaci, l'autista dei treni o dei pullman, eccetera, eccetera. Ma a 41 anni tutti i lavori, non è che il lavoro è usurante, è il lavoratore che è usurato. Ormai a 41, con 41 anni di contributi di lavoro sulle spalle, uno non ce la fa più comunque. Ma non è vero. Io che lavoro in un ospedale, le assicuro che un infermiere che fa pomeriggio, notte, giorno, che lavora vicino ai malati tutti i giorni, che si trova a confrontarsi con la malattia tutti i santi giorni. Non ce la fa. È stressantissimo. Grazie Alfiere. Diamo spazio a tutti. Comunque, e i lavoratori Giannino notturni ci sono, i conducenti del trasporto pubblico ci sono già. Quindi io aspetto di capire quali sono tutte queste categorie che sono usuranti e non sono comprese. Perché siccome ce l'ha presente. Stiamo parlando di. Di quali? Ho sentito il trasporto pubblico c'è già. I turni notturni ci sono già. Quelli in catena ci sono già. E no, quindi in catena non ci sono. I lavoratori addetti alla catena? Vattene a vedere. Te li leggo perché l'ho letta alla Fornero che non li sapeva, pensa. Allora, vedete alla Fornero, me li abbiamo messi con gli interventi di questi anni. Sono il docente di prima, non è ancora suonata la campanella. Chiamiamolo. Ah, pronto, prego. Buongiorno. Pronto? Vai, approfittiamo della pausa di lavoro. Ah, già, ma buongiorno, mi avete già risposto. In realtà io insegno da più di 30 anni, io voglio continuare a stare nel mondo della scuola, mi piace, ci posso stare anche fino bravo, a 80 anni. Bravo. In un'epoca di mutazione antropologica non è così facile interagire con dei ragazzi di 16 anni, io voglio continuare a fare altro all'interno della scuola, mi va benissimo. Questo poi volevo dire a Giannino che ha perfettamente ragione, lei non so se lei sa bene cosa sta succedendo nel mondo della scuola, è diventato un assumificio, si assume gente per non far niente ed è una cosa. Bravo, medaglia, meno medaglia, male che non è ancora suonata la campanella. Dobbiamo ragionare sulle cose, non essere ideologici. Si guardi. Grazie. Dai colleghi che le fanno sgambetto sulla scala. Crimi. Io aggiungo che c'è una categoria di lavoratori. Ma voi la cancellereste, no, la Fornero, o la rivedereste per capire? Ah, certamente la Fornero va rivista, ma va rivisto tutto il sistema pensionistico nella sua interezza, ma ovviamente cercando di trovare i fondi. La prima domanda che si poneva Giannino giustamente è dove troviamo i soldi? Ecco, sì, ecco. Perché la ricordo, la prospettiva è che andiamo al 18% del PIL di spesa previdenziale e ogni anno già ci sono 110 miliardi della fiscalità generale. Ti stavo dando ragione, Giannino, dicendo dove trovare i soldi? I soldi si trovano, però non c'è da sperticarsi molto, basta andare a leggere il bilancio dello Stato ogni anno e sapete come troviamo un bel po' di soldi. Boeri dice che gli immigrati sprecare con delle opere inutili, cosa che continuiamo a insistere, e abbiamo uno spreco immenso su opere totalmente inutili. Quando io penso alla Brebbe Mila autostrada che è vuota e sul quale ogni anno spendiamo 300 milioni di euro, mi fa arrabbiare, ma penso a quella, ma altro. Una cosa che vorrei aggiungere: c'è una categoria di lavoratori usuranti che sono sempre tutelati, che sono i politici con i vitalizi. Non viene toccata. Ma quelli, stiamo parlando da anni. 4 anni e 6 mesi ancora per andare in pensione. Su quello aspettiamo ancora che. Bene. Grazie. Non venga affrontata la legge. Grazie, no? Richiami presto Francesco da Milano. Sì, pronto? Sì. Francesco? Sì. Non ci sento. Francesco? Sì. Francesco? Sì, mi sente? Sì, ora sì. Vada. No, io vorrei fare una premessa innanzitutto e anche un augurio a Bersani e Berlusconi, visto che oggi è il loro compleanno. Forse la Fornero è sempre chiamata con il suo vero nome, Bersani Berlusconi, che diedero i voti a questa norma che ad oggi nessuno ha avuto il coraggio di abrogare. Io chiedo a Crimi, insomma, da passare dalle parole ai fatti e trovare i fondi per abrogare la Fornero, insomma, ce ne passa. Poi sono d'accordo con Giannino sui pensionamenti. Però se vogliamo parlare di prevenzionamenti, forse le categorie più generose sono a tutt'oggi quella degli editoriali e quella dei bancari. Giannino lo sa. Gli editoriali chi sarebbero, scusi? I bancari, gli editoriali, i dipendenti delle aziende editoriali, insomma. Ah, i dipendenti delle editoriali. Se lo fa, avendo riferimento a me, io lo ripeto per la miliardesima volta, io sono una partita IVA, vado con contratti a tempo, mi pago da solo i contributi, non esatto. Sono non un dipendente. E ai contributi finché lavora. Proprio, il problema lo sa benissimo, insomma, però ripeto, le 11 gestioni, ognuno fa l'esempio solo di quelli che odia di più, le 11 gestioni ci sono tutti gli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, tutti gli ex post telegrafonici, sia Poste che Telegrafi che gli dipendenti della telefonia pubblica quando Telecom era pubblica. Ci sono gli ex dirigenti pubblici, tutti quelli della gestione IMPDAP, cioè ci sono milioni di italiani, non stiamo parlando di poche migliaia, milioni di italiani che hanno avuto pensioni retributive con un maxi regalo rispetto ai Crimi contributi versati. È ancora lì, perché ho visto che lei giustamente è anche dell'ala del movimento più che va più con i piedi di piombo, però le volevo chiedere questo: una cosa si potrebbe fare. Io ieri ho letto dal Messaggero un pezzo che mi ha molto preoccupato sul fatto che neanche in questo DEF si abbatte il cosiddetto ricongiungimento oneroso. Quello sì che è una cosa incredibile. Giusto. Perché qua uno deve pagare il riscatto per il lavoro che ha fatto, solo perché magari ha lavorato da dipendente per una fase della sua vita e da libero professionista in un'altra. Questa è una follia. Dovete fare le barricate su questo e trovare larghe intese, perché uno non può pagare per riscattare i contributi che ha già pagato. Concordo perfettamente con questo. Questa è sicuramente una norma da fare, cosa che, ripeto, ci tengo sempre a sottolinearlo, non avviene per la classe politica quando vuole ricongiungere i suoi periodi di esercizio parlamentare mancanti per coprire il periodo intero dei 4 anni e 6 mesi. Sì, il ricongiungimento è oneroso, in passato si è intervenuto a ridurre quello per quanto riguarda... Dovevano cancellarlo tutto, laurea, invece non ci sono i soldi. Adesso insomma... Allora, emendamento cani e gatti, a spolpare ancora una volta ulteriori contributi a chi li ha versati. Emendamento Giannino Telese, le chiederemo di impegnarsi. Senta, leggiamo un'altra storia per commentare con lei, se ancora tempo, e con Oscar questa vicenda che parla dei precoci, che c'è tutta la nominalistica di queste sofferenze. Buongiorno, ho iniziato a lavorare come operaia a 15 anni nel 1985, ora ne ho 48 e l'idea di dover andare in pensione obbligatoriamente a 67 anni mi fa veramente arrabbiare. Per i lavoratori precoci è un incubo, e se uno ha 55 anni perde il lavoro, che succede? Non lo vuole più nessuno. I datori di lavoro non lo ammetteranno mai, ma i lavoratori anziani sono un debito e loro non li vogliono. Enrica. E questa è osservazione breve, se andiamo a vedere però qual è il bilancio di questi 3 anni di massiccia decontribuzione a tempo, io ero contrario, ma detto questo, collegata al Jobs Act, vediamo che l'occupazione è salita percentualmente, soprattutto per le classi di over 50 anni, per le coorti anagrafiche, per effetto della riforma Fornero e per effetto del fatto che poi le imprese hanno assorbito, quindi per la protrazione più a lungo nel tempo di quelle coorti anagrafiche, mentre gli altri perdevano lavoro, e perché poi le imprese hanno ricominciato ad assorbire proprio chi andava in cassa delle over 50 anni e non i giovani. Quindi questa storia, i numeri ci dicono che non è vera sempre, è vera spesso, ma non è vera sempre in Italia. Allora, un'altra telefonata da Venezia, Andrea. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, beh, io sono marito e fratello di insegnanti, e il fatto che l'insegnamento non sia usurante non si può riderci sopra. Ci sono, è vero, molti insegnanti per i quali non è assolutamente usurante, perché non fanno nulla o pressoché, per cui tanto il posto, a meno che non ammazzino qualcuno, ma forse anche in quel caso li trasferiscono e basta, è troppo assicurato il posto di insegnante, questo sì, ma non è che non sia usurante. No, guardi, io però sono figlio di due professori, hanno fatto il lavoro con passione, ricordo mio padre chino su mazzi e mazzi di compiti che sbucavano da ogni angolo della casa, io volevo uscire, lui mi diceva devo finire la terza, non ti posso portare alla villa, però c'è una differenza, lo dico proprio con la passione per il lavoro dei miei genitori. C'è una differenza fra chi fa questo e chi sta a chiudere genitori, una pressa. Quando i genitori insegnavano c'era tutto un altro rapporto con i ragazzi, io ho 59 anni, e anche con i genitori dei ragazzi. Adesso è totalmente cambiato. È vero, è molto più difficile, non c'è dubbio. Che Giannino, io facevo il gazebo per fare, ecco, per dire, non è che ce l'ho con Giannino, però non ha risposto a quell'autotrasportatore di 65 anni, che la mansione è diversa. Io non so se a 60 anni tutti gli autotrasportatori li mettano a fare i magazzinieri, non c'è spazio. Nel trasporto pubblico li mettono a fare i controllori, però. Sì, sì, sì. Allora, uno che guida il camion. Oscar è qui, è già pronto. Ma io non ho capito perché voi dite non c'è spazio, propensioniamoli. Noi, la verità è che una diversa cultura del lavoro, compatibile col fatto che dovremo lavorare di più, dovremo, anche se non vi piace, perché non vi piace, questo è una questione culturale in Italia, ognuno si inventa la scusa. Perché, come ho sentito dire, 40 anni di lavoro, ma a prescindere, no, qualunque lavoro. Però, aspetta, chi è intervenuto prima? Conto, chi è intervenuto prima? È il lavoratore che ci ha detto, dopo 40 anni il lavoratore è usurato. Vabbè, uno, questa è una questione di fondo culturale. Altrimenti, cambiare la cultura di lavoro, delle mansioni, degli impieghi nelle imprese dovrebbe essere una cosa ordinaria rispetto alla anzianità contributiva e alla permanenza in azienda. Questo è una colpa anche delle imprese, non è una questione di leggi. La cultura del lavoro si cambia nel rapporto tra collaboratore e imprenditore, e su questo le imprese hanno le loro colpe. Crimi, l'ultima battuta a lei, rapidissimo. No, io invece sui lavoratori precoci, 41 anni, devo dire che dobbiamo fare qualcosa, nel senso che non è possibile comunque lavorare oltre un certo periodo. Quindi lei 41 per lei è una soglia inaccettabile? Più di 41 è una soglia per dire basta, a quel punto hai diritto alla pensione, anche se non hai raggiunto la maggiore età. Ma 41 significa che hai iniziato a 20 anni, a 61 anni gli bisogna dargli la pensione, ma non lo posso accettare. Hai versato per 41 anni di contributi, sì. Hai versato una quantità di contributi che forse è sufficiente almeno a ripagare la tua pensione. Ma no, perché siamo in un sistema a ripartizione, Crimi, non a capitalizzazione. Lei lo sa meglio di me. I suoi contributi non sono un monte messo da parte, sono usati ogni mese per pagare le pensioni agli altri. Anch'io penso che 41 in ogni caso sia sbagliato. 41 in ogni caso è sbagliato, però in alcuni casi meno. Vabbè, ci sono legittime opinioni diverse, nessun problema. Torneremo a parlarne domani, cani e gatti. Oscar, l'ultimo miagolio. 6-5 stelle. Quando dicevano a qualunque avviso di garanzia dimettiti, ecco, adesso sono diventati grandi, sanno che governando l'avviso di garanzia arriva. Prima era meglio se non lo dicevano. Putto. A domani.